in primo piano. Buongiorno, buon giovedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24 dei quotidiani italiani. Oggi sono tutti concentrati sulle misure annunciate nei giorni scorsi dal governo e ieri dallo stesso Premier Renzi, perché domani, 29 di agosto, c'è il primo consiglio dei ministri, diciamo, post ferie, anche se di ferie tutto il governo ne ha fatte poche, e bisognerà appunto discutere soprattutto di scuola, di pubblica amministrazione, del decreto Sblocca Italia di cui abbiamo parlato tanto ieri, e anche di giustizia, perché questo è un altro dei temi caldi. E il Corriere della Sera infatti titola, questo è il titolo di apertura, la giustizia torna a dividere. Ieri tra l'altro Renzi, che il titolo in realtà è legato alle dichiarazioni del ministro della giustizia che presenterà la sua riforma, però ha già detto ci sono parecchi problemi anche all'interno della maggioranza, quindi sarà sicuramente un consiglio dei ministri molto infuocato, tanto che per esempio anche il Corriere ricorda Forza Italia ha già avanzato e attaccato sul capitolo intercettazioni e su quello delle prescrizioni, ma Renzi ieri ha aggiunto anche una novità che è quella dei tribunali, che come tantissime altre cose in Italia sono chiusi per ferie per quasi tutto il mese di agosto, e vorrebbe Renzi che questa interruzione durasse soltanto 20 giorni. Ma la fotonotizia invece del Corriere della Sera è dedicata alla Francia, perché Stefano Montefiori, il corrispondente a Parigi del Corriere della Sera, ha intervistato il premier Manuel Valls, e la sintesi di questa intervista è: la Francia vive da 40 anni al di sopra dei propri mezzi. C'è stato un eccesso di spesa pubblica. Sapete che spesso si parla della pubblica amministrazione italiana, in realtà i dipendenti pubblici francesi sono molti di più. Poi chiaramente bisogna vedere quanto è efficiente la macchina dello Stato francese rispetto a quella italiana, però per dire che sicuramente il capitolo spesa pubblica e pubblica amministrazione in Francia pesa molto sul bilancio dello Stato, forse addirittura di più di quanto non succeda in Italia. Poi ripeto, bisogna vedere quanto è efficiente questa spesa, però è uno dei temi appunto toccati dal premier Manuel Valls. E poi ha parlato anche agli industriali. Sapete che nel rimpasto che c'è stato voluto dal presidente Hollande è cambiato il ministro dell'economia, al posto di un ministro che era molto critico sulle misure per l'austerità è stato scelto un ex banchiere d'affari di 36 anni, che invece sicuramente è più legato al mondo della finanza e dell'economia. E infatti una delle cose che dice il premier Manuel Valls è: contro la crisi abbiamo bisogno delle nostre imprese. Ma vediamo invece la prima pagina della Repubblica. Anche in questo caso il tema principale è la giustizia. Il titolo: ecco la riforma, ma sulle intercettazioni e scontro nel governo. Il nuovo centrodestra divide la maggioranza, e Berlusconi, di cui non sentivamo parlare da un po' sulle questioni del governo, ma chiaramente la questione della giustizia è caldissima, Berlusconi in trincea. C'è un articolo che inizia, poi prosegue a pagina 2, di Liana Milella, che è una delle, forse la più esperta cronista di giustizia di Repubblica, e che vi leggo le prime righe, perché parla appunto di questa riforma che vi dicevo preparata, questa bozza di riforma preparata dal ministro Andrea Orlando. Il ministro della giustizia ci ha lavorato tutta l'estate, ieri i suoi tecnici hanno inviato a Palazzo Chigi i testi delle future leggi. 9 decreti legge e 9 DDL e un decreto legge per mettere fine all'arretrato civile, pronte per essere discusse nel preconsiglio che si svolgerà oggi, quindi preconsiglio dei ministri oggi, consiglio dei ministri domani. Non c'è il CSM, quindi per ora il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autocontrollo della magistratura il cui presidente è il capo dello Stato, per ora non viene menzionato in questo progetto di legge, però ci sono le famose intercettazioni, anche se per ora si tratta di un primo assaggio con lo stop alle trascrizioni per i famosi terzi. Ma veniamo alla prima pagina del Sole 24 Ore, che tra l'altro c'è un collegamento, perché comunque sulla prima pagina di Repubblica Federico Fubini interviene sulla questione di un'ulteriore cessione di quote di Eni ed Enel, che una volta erano le due grandi aziende interamente pubbliche, adesso sono già parzialmente private. L'articolo di Fubini si intitola "Se lo Stato perde i colossi Eni e Enel", ed ecco appunto il titolo principale del Sole 24 Ore, che è: privatizzazioni, Padoan, ministro dell'economia, dal via al piano Eni Enel. C'è anche un accenno naturalmente a quello che succederà domani al Consiglio dei Ministri di domani, Renzi prepara il Consiglio dei Ministri, il nodo delle risorse per le assunzioni della scuola. Nei giorni scorsi ne abbiamo parlato, Renzi vuole mettere fine alla questione vuole assumere molti precari e anche correggere definitivamente il nodo delle supplenze, però ci vogliono risorse, queste risorse per ora non è chiaro da dove verranno. L'intervento, il commento di Fabrizio Forchevice, direttore del Sole 24 Ore, le opportunità e i rischi, vi leggo è la prima parte, poi continua a pagina 3. Il ministro Padoan non la considera certo una risposta ai dubbi avanzati dal Financial Times nei giorni scorsi, tanto per cambiare aggiungo io, vi ricordo io, Financial Times, che è sempre molto attento alle questioni italiane e non solo, aveva naturalmente avanzato alcuni dubbi sulle misure del governo e sulla reale capacità del nostro governo di fare le riforme. Ma l'urgenza con cui ha convocato la riunione di ieri al Ministero dell'Economia per il rilancio del piano di privatizzazioni è un po' anche questo. Padoan vuole evitare che si faccia strada sui mercati internazionali l'idea di un paese avvitato nella crisi, il cui stesso governo non ha fiducia nei suoi asset industriali, gioielli o meno che siano. Dalla prima pagina del Sole 24 Ore vi segnalo anche un'intervista al sindaco di Milano Giuliano Pisapia di Michela Finizio, che torna sulla questione di cui ci siamo occupati ieri, ricorderete, con un articolo proprio di Michela Finizio e un commento di Paola Bottelli che si intitolava Mai più, su questa questione del TAR di Milano che ha bloccato i lavori nella galleria, dei lavori che la galleria, chiamata anche il Salotto Buono di Milano, forse uno dei luoghi più famosi di Milano, la Galleria Vittorio Emanuele, che si apre proprio di fianco al Duomo, chi ci passa adesso la vede, è già in fase di grande restauro, molto è in vista di Expo. Questi restauri sono finanziati in gran parte dai privati, in particolare dai marchi della moda che in galleria hanno alcuni dei loro negozi più grandi, e questa alleanza tra pubblico e privato è stata bloccata dal TAR, dal Tribunale Amministrativo. E Pisapia, il titolo scelto per l'intervista di Michela Finizio, che poi trovate a pagina 7, è Non si può vivere di codicilli. Spesso infatti, e viene sempre in mente la zecca Garbugli di Alessandro Manzoni, queste in Italia si viene un po', l'Italia sapete ha oltre 100.000 leggi, forse adesso saranno anche di più, questo è l'ultimo dato che ricordo, per darvi un'idea, la Germania ne ha 10.000 e non è uno stato di common law, quindi sono vere e proprie leggi quelle della Germania. Ecco, vedete la sproporzione, allora è chiaro che tra 100.000, una giungla di 100.000 leggi, è facile trovare codicilli a cui forse giudici troppo zelanti amministrativi e non possono attaccarsi, ed ecco appunto bloccati i lavori con probabilmente anche dei ritardi, ripeto, in vista di Expo. A proposito di moda, vi segnalo poi e leggeremo dopo parte di questi articoli, vi segnalo a pagina 11 una notizia che ha solo il Sole 24 Ore e che è quella della Russia, che sapete sta imponendo sta reagendo alle sanzioni che la comunità internazionale, in particolare l'Unione Europea e gli Stati Uniti, hanno imposto per la crisi in Ucraina, sanzioni prevalentemente economiche, sta reagendo a sua volta mettendo dei veri e propri embargo, perché sta bloccandola, ha iniziato con i prodotti agroalimentari causando grandi danni all'Italia e non solo, e adesso passa alla moda. E allora il titolo: la Russia vieta l'import statale di tessili e calzature, e appunto a pagina 10 e 11 trovate due pagine intere di approfondimento su questo tema. Quella dell'ortofrutta è curata da Massimo Agostini. L'ortofrutta paga il dazio più caro, il settore più penalizzato dall'embargo russo rischia danni per oltre 100 milioni di euro. Ma la novità, vi dicevo, è quella delle sanzioni sulla moda. Trovate l'articolo di Paola Bottelli con tutti i dati, le previsioni fatte su quanto potrà costare a quello che è un settore importantissimo per l'Italia, appunto quello del sistema moda. Sapete che l'Italia è praticamente l'unico paese rimasto, non solo in Europa ma al mondo, ad avere una filiera completa del tessile abbigliamento, e quindi importantissima anche dal punto di vista dell'occupazione e dell'export, perché tra l'altro è un settore che esporta quasi il 70% della produzione. Dal 1 settembre sono state vietate le importazioni in Russia di numerosi prodotti da Stati Uniti e Unione Europea. Paola Bottelli ci spiega che è un provvedimento introdotto un po' così in sordina dal primo ministro Dmitry Medvedev, che sappiamo è di fatto telecomandato da Putin, che ha firmato questa risoluzione in base alla quale dal prossimo 1 settembre saranno vietate le importazioni dagli Stati Uniti e dall'Europa, esclusi espressamente Bielorussia e Kazakistan, che sapete fanno parte di quell'unione doganale particolare con la Russia, di diverse categorie di prodotti tessili. C'è un'infografica che si intitola La posta in gioco, e appunto spiega quali sono tutte le conseguenze di questo embargo voluto dalla dalla Russia sui vari settori dell'economia italiana. C'è poi un altro articolo con un'intervista a Claudio Marenzi, che è presidente di Sistema Moda Italia, che è l'associazione più grande che riunisce la maggior parte delle imprese del settore, che spiega: saremo obbligati a individuare sbocchi alternativi, anche perché la Russia negli ultimi anni era diventata veramente, sostituendo in parte anche o comunque compensando in parte, soprattutto negli ultimi 8-9 mesi, il rallentamento dell'Asia, in particolare della Cina, era diventata veramente un mercato importantissimo. L'analisi è di Antonella Scott, Escalation che non avrà né vincitori né vinti. Ma vi segnalo, l'avete sentito anche nel GR, che da oggi c'è questa nuova iniziativa del Sole 24 Ore. Ve la segnalo perché l'ho qui davanti a me, l'ho sfogliato ed è veramente interessante questo corso, non di English ma di Business English. Oggi, ogni giovedì, ci sarà in edicola un DVD. Con il quotidiano il tutto costerà 1,50 euro, quindi senza sovrapprezzo. Invece il giorno dopo a 1,90 euro ci sarà un libretto che è proprio pieno di esercizi, di domande, di approfondimenti sui verbi. Ogni settimana ci sarà un tema. Il primo tema è quello dei meetings, cioè delle riunioni, e in questo caso quindi le competenze linguistiche fondamentali per partecipare e condurre riunioni. È un'opera che inizia adesso e poi comprende 20 appuntamenti, e naturalmente non c'è bisogno che sottolinei quanto sia importante in un mondo globalizzato saper utilizzare l'inglese, sapersi esprimere bene. Poi, come dico sempre, l'inglese è una lingua che bisogna conoscere molto bene, maneggiare molto bene 1000-1500 vocaboli. Non è come il tedesco, che è un'altra lingua che conosco e per questo ve ne parlo, ha bisogno di molti più vocaboli. Con l'inglese, se li maneggiate bene, se imparate a maneggiarli bene con strumenti pratici come questi, potete, il grosso è fatto. Poi naturalmente, se uno vuole leggere James Joyce in originale, la fatica è un pochino di più. Ma passiamo alla prima pagina della Stampa, che anche in questo caso torna sull'attualità del governo. Cantieri e scuole, ecco il piano. Si parla anche del cosiddetto decreto sblocca Italia, che forse avrebbe racimolato fino a 3 miliardi di risorse. E sulla giustizia, come abbiamo visto anche sugli altri giornali, però tutti sappiamo che per ora l'intesa non c'è. La fotonotizia è dedicata al Festival di Venezia, su cui ci aggiornerà sicuramente Cristina Battocletti, che è lì, come avete sentito. La foto scelta dalla Stampa è di Edward Norton, che è protagonista di questo film anche con Michael Keaton. Ma il cosiddetto palchettone, come ieri aveva fatto già la Stampa, anche oggi è dedicato a Mare Nostrum. Sapete che c'è stato questo incontro tra il ministro dell'interno Alfano e il commissario europeo Malmström, e si è annunciata questa nuova strategia, quindi non più Mare Nostrum, che è un'operazione sostanzialmente condotta a carico delle navi italiane, della marina italiana, ma un coinvolgimento maggiore dell'Unione Europea. Naturalmente per ora sono promesse, e l'annuncio, appunto, l'operazione sarà condivisa con altri paesi, e vedremo poi come si svilupperà concretamente questo nuovo piano. Sempre in questo palchettone, che vi dicevo in gergo è un po' il titolo con caratteri un pochino più piccoli, che compare subito sotto il titolo della testata, c'è anche l'allarme lanciato ieri dall'ONU, che trovate su tutti i giornali, sul fatto che l'ISIS, il famigerato califfato che ha preso così tanto potere in Iraq, cerca piccoli jihadisti baby, persino tra i bambini di 10 anni. E tra l'altro, su questa questione della ricerca di adepti, appunto, di futuri purtroppo terroristi dell'ISIS, continua anche la questione del fatto che vengono reclutati anche in Europa, anche in Italia. C'è per esempio un'indagine dei ROS in Veneto, di cui parla la Stampa e anche altri giornali, su questi ipotetici, su questi presunti reclutatori che cercavano terroristi da arruolare poi per mandarli in Siria. Il Messaggero anche in questo caso titola sulla giustizia: scontro nel governo. E vengono citate le parole del ministro Orlando, che ha ammesso ieri che ci sono sicuramente già, ancora prima di cominciare a discuterne in consiglio, ci sono dei forti contrasti, in particolare con il nuovo centrodestra. La fotonotizia in questo caso è dedicata a Mare Nostrum, al vertice che c'è stato a Bruxelles, con questo addio a Mare Nostrum, che appunto Alfano ha annunciato verrà sostituito da quest'altro piano, questo programma autenticamente europeo che si chiamerà Frontex Plus. La pagina dell'Avvenire è dedicata proprio alla notizia che vi dicevo dell'allarme dell'ONU, tutti gli orrori dell'ISIS che arruola i bambini. E in Veneto ci sarebbero appunto 5 indagati che avevano già iniziato a reclutare per la Jihad. Nel rapporto dell'ONU sulla Siria c'è anche la denuncia di mutilazioni, esecuzioni in piazza, esposizioni di cadaveri, e con questi combattenti che avevano appunto, pensate, appena 10 anni. Ci fermiamo un attimo e ci risentiamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sui quotidiani con in particolare l'Avvenire che ha scelto di titolare sul rapporto dell'ONU che denuncia il fatto che l'ISIS, il califfato dell'Iraq, recluterebbe i suoi piccoli terroristi addirittura tra bambini di 10 anni. E sulla questione del terrorismo tornano sia Giornale che Libero. Giornale dando spazio alla vicenda che riguarda Magdi Cristiano Allam. Sapete, Magdi Allam, una volta Magdi Cristiano Allam si chiamava Magdi Allam, fino a 56 anni. La sua religione era l'Islam, poi si è convertito al cristianesimo ed è diventato Magdi Cristiano Allam. È stato in passato collaboratore, commentatore di Repubblica, addirittura vice direttore del Corriere della Sera. Attualmente è un collaboratore del Giornale e per alcuni suoi scritti, alcuni suoi articoli, adesso è sotto indagine dell'Ordine dei giornalisti con un'accusa che Alessandro Sallusti sulla prima pagina del Giornale definisce agghiacciante e inedita, cioè quella di islamofobia. E da qui il titolo principale del giornale, vietato criticare l'Islam, Italia lingue. I musulmani chiedono, l'ordine dei giornalisti esegue. Magdi Allam come la fallacia, processo per le idee espresse sul terrorismo. E poi l'accenno a quell'indagine che abbiamo visto in Veneto con i 5 indagati per terrorismo. C'è quindi l'intervento di Alessandro Sallusti in difesa di Magdi Allam e comunque in difesa della libera espressione. E poi un intervento dello stesso Magdi Cristiano Allam che si intitola Vergogna, fate il gioco di chi mi vuole morto. Libero invece ha un titolo abbastanza simile, si focalizza sull'indagine del Veneto, chi sono i terroristi di casa nostra, pubblichiamo una ricerca impressionante sugli jihadisti che vivono tra noi, sono sempre di più e sempre più difficili da individuare, per combatterli servono nuove leggi, una politica diversa sull'immigrazione. L'articolo è del direttore Maurizio Belpietro e poi c'è un altro stralcio di un intervento di Oriana Fallaci, le galline della sinistra sottomesse all'Islam. Sapete che sia il Giornale sia Libero hanno nei giorni scorsi ripubblicato alcuni scritti di Oriana Fallaci. La prima pagina del Manifesto tutta dedicata a Renzi, che ha un viso un po' così intontito, potremmo dire, in mano una racchetta da tennis. Sapete che durante quest'estate un po' di lavoro, un po' di diplomazia, un po' di interventi ai vari convegni, Matteo Renzi ha anche trovato il tempo di giocare a tennis e il Manifesto però è molto critico su quello che succederà domani nel Consiglio dei Ministri. Il titolo è Non c'è verso, Renzi aveva annunciato una ripartenza col botto ma il Consiglio dei Ministri di domani rischia il flop, sulla giustizia non c'è accordo nella maggioranza, il governo è a caccia di risorse per la scuola e le infrastrutture, allo sblocca Italia mancherebbero addirittura, qui la cifra del manifesto è diversa da quella che abbiamo visto prima, mancano 40 miliardi, insegnanti e studenti sono già sul piede di guerra. La prima pagina del Fatto Quotidiano, anche in questo caso dedicata a Renzi, anche in questo caso molto critica, Renzi scarica i suoi ministri, economia e giustizia a pezzi. Sapete che sulla giustizia appunto lo stesso Andrea Orlando, adesso il titolo del Fatto Quotidiano forse è sicuramente molto, molto polemico, il Fatto Quotidiano è di fatto un giornale di opinione, quindi anche nei titoli lo dimostra, che Renzi abbia scaricato il ministro della giustizia è un'opinione, però è perché le dichiarazioni di Andrea Orlando paiono in realtà molto concrete, molto trasparenti, cioè il problema è, ma lo avremmo potuto immaginare tutti, che la riforma della giustizia sarebbe stata una delle più controverse per un governo che ha queste due anime, da una parte quella di centrosinistra e da una parte il nuovo centrodestra di Angelino Alfano. Il Fatto Quotidiano scrive nell'occhiello, alla vigilia del Consiglio dei Ministri, il Premier fa tutto da solo su scuola e lavoro, sfiduciando Giannini e Poletti. Orlando licenzia la riforma del civile, mentre sul penale non c'è accordo con Alfano. Palazzo Chigi dovrà scegliere se cercare i voti da Forza Italia o dal Movimento 5 Stelle. E Padoan ha avvertito, non c'è un soldo. In realtà avete sentito, avete visto anche sul Sole 24 Ore, l'interpretazione è un po' diversa. Cioè sappiamo che le risorse sono scarse, ma sappiamo anche quanto il ministro Padoan Erdogan, altri ministri, il governo tutto, si stia impegnando, così naturalmente ci auguriamo, ma perché sperare o credere il contrario, sta cercando anche, per esempio, con la famosa spending review del commissario Cottarelli, di reperire queste riforme queste risorse necessarie per le riforme. Alleggeriamo un attimo il tema con la Gazzetta dello Sport, che naturalmente parla del disastro Napoli, ne avete sentito anche nel GR con il pezzo di Carlo Genta, quanti errori, crolla Bilbao, è un altro smacco per il nostro calcio, ma poi in realtà la Gazzetta ieri ha ospitato per molte ore, credo, perché in realtà si annuncia quello che viene trascritto oggi è solo la prima parte, poi si annuncia una seconda parte presto, ha ospitato il nuovo CT Antonio Conte, e quindi il titolo è Conte in Gazza, così cambio l'Italia. Parla il nuovo CT azzurro, la nazionale somiglierà a un club e sarà un premio da conquistare. Vi leggo soltanto trovate la trascrizione dell'intervista alle pagine 2 e 3, vi leggo la domanda e la risposta su Balotelli, sicuramente il tema un po' che forse insomma ci stuzzica tutti. Balotelli in Inghilterra cambia qualcosa? Chiedono Fabio Licari e Mirko Graziano a Conte, e lui risponde: niente in prospettiva azzurra e non ho preconcetti né favoritismi nei confronti di nessuno. Se andare in Premier sia una scelta positiva e negativa non so, ma so che chi arriva in nazionale deve poi meritare di restare. Conta più l'uomo del calciatore, io ho sempre puntato sugli uomini, li valuto dai piedi al collo, anzi dalle caviglie, se no poi dicono degli sponsor. Ride tra parentesi, non guardo in faccia e non transigo, dovremmo essere squadra per fare qualcosa di importante, il talento viene dopo, prima devi metterti a disposizione del gruppo, se no puntini puntini. E l'ultima domanda che gli fanno: tre obiettivi immediati? Far capire l'idea di gioco con allenamenti molto tattici e partitelle in cui applicare i miei principi, lavorando con l'aiuto del video. Poi spiegare che la nazionale deve avvicinarsi ai club per metodologia, idea di gioco. Preferisco perdere in contropiede che stare ad aspettare a metà campo. Terzo, amore e attesa per l'Italia, che con le sue 4 stelle è la più importante del mondo dopo il Brasile. Passiamo un po' alle pagine interne, e vi dicevo sul Sole 24 Ore appunto la pagina di approfondimento sull'embargo imposto, sulle sanzioni imposte dalla Russia a tutti i prodotti di moda dopo quelle imposte all'agroalimentare. Vi dicevo a pagina 11 con lo schema riassuntivo l'articolo di Paola Bottelli, l'intervista a Claudio Marenzi, presidente di Sistema Moda Italia, e poi l'analisi di Antonella Scotto, di cui vi leggo le ultime righe, perché come dicevamo questa questione delle sanzioni, delle controsanzioni imposte da Mosca dopo la crisi ucraina va avanti in realtà da molto tempo e non si capisce bene dove finiremo. Quindi il titolo dell'analisi di Antonella è Escalation che non avrà né vincitori né vinti. Vi leggo l'ultima parte, appunto: come ormai è chiaro, questa guerra commerciale minaccia di aggravare le difficoltà dell'economia europea, a partire dalla Germania e dal suo export, e di trascinare la Russia in recessione. Non ci saranno vincitori. Al vertice di Minsk Putin ha fatto capire quanto si è preoccupato, parlando a lungo delle difficoltà che l'avvicinamento commerciale dell'Ucraina all'Europa può creare alla Russia e al suo mercato. Questo è il nodo da cui è nata la grande crisi, che purtroppo ormai non può risolversi solo sul fronte degli scambi, ma anche negli scambi prima o poi bisognerà ricostruire la fiducia che Putin invoca. Per spezzare la spirale si potrebbe cominciare anche da qui. E poi vi segnalo un approfondimento sugli Open d'Italia, che è il più importante torneo di golf italiano. Il golf lo sappiamo, insomma, in Italia parliamo quasi esclusivamente di calcio, è lo sport nazionale, però si pensa che il golf, e di fatto in Italia lo è, sia uno sport molto elitario, però per esempio chi ha frequentato l'Irlanda o la Scozia sa che si può concepire il golf, che è un bellissimo sport all'aria aperta, anche non come sport elitario. E quindi c'è anche in Italia un forte tentativo da parte di chi lo pratica, da parte di chi organizza i tornei, a trasformare un po' questo mondo, a attirare più persone, soprattutto giovani. E allora, siccome appunto iniziano gli Open d'Italia, c'è questo approfondimento, e tra l'altro sarebbe, visto che parliamo sempre di rilanciare il turismo, potrebbe anche essere un ottimo binomio. Da qui appunto il titolo dell'articolo che va sotto l'occhiello di sport ed economia: golf e turismo, c'è un modello inglese. A Torino saranno presenti agli Open d'Italia 50 emittenti straniere con un audience di oltre 400 milioni di telespettatori, quindi una bella vetrina per gli Open d'Italia che si svolgono a Torino, ma in fondo anche per tutto il paese, per far capire che l'Italia non è solo calcio, ecco. Dalla copertina di Finanze e Mercati, l'ennesimo aggiornamento lo stiamo seguendo da qualche giorno sulla questione della maxi offerta che Telecom sta per fare per GVT, questo operatore di telefonia. Dalla brasiliana OI e da BTG Pactual però c'è stato il preannuncio di una proposta alla società italiana per Team Brasil, quindi la vicenda si complica ulteriormente, ci spiega tutto Laura Galvagni in questo che viene definita la battaglia delle TLC. Vi segnalo dal dorso di Finanze e Mercati anche un approfondimento su quello che è successo ieri in moda ieri in borsa ai titoli del lusso. A parte un'azienda americana, Tiffany, che è il secondo gioielliere al mondo, che ha annunciato i dati semestrali, ma anche quindi annunciato che è ottimista per l'intero anno, cioè quello che si chiama in gergo alzare le stime su tutto l'esercizio, che è sempre un segno di fiducia non soltanto nelle potenzialità della propria azienda ma del mercato, quindi sono notizie che vengono in generale accolte molto bene dalla borsa. Ma ieri appunto, e da qui l'approfondimento, il mini euro rilancia i big del lusso, sono andati molto bene molti titoli tra cui del comparto, tra cui Tod's, Moncler, LVMH, che è la holding di cui fa parte, solo per fare il nome più importante, Witton, che anche lei è andata molto bene a Parigi, e poi il titolo Brunello Cucinelli. Ieri Cucinelli ha presentato la semestrale, l'ennesima ottima semestrale, con un aumento del fatturato dell'11,6% e anche degli utili, della redditività lorda, che è stato del 12,9%, quindi anche questo titolo e questa azienda continuano la loro corsa. Il Sole 24 Ore fa appunto questa analisi spiegando come questo tanto auspicato e che finalmente sta arrivando aggiustamento dell'euro rispetto al dollaro abbia sicuramente aiutato. Andiamo alla pagina del Corriere della Sera. Qui forse l'avrete sentito, poi noi in Italia siamo particolarmente abituati a politici che fanno dichiarazioni, non solo politici, poi dicono di essere stati fraintesi. Ricorderete sicuramente le dichiarazioni di Draghi che hanno aiutato le borse nei giorni scorsi. Beh, ieri invece il tedesco Schäuble, che è ministro delle finanze tedesco, Wolfgang Schäuble, ha detto che in realtà Draghi è stato frainteso, e da qui tassi e spread ancora in calo, e Schäuble però ha frenato le attese dicendo che appunto il governatore della BCE è stato frainteso. Guarda caso, il differenziale con i titoli tedeschi, lo famoso spread, continua a scendere, ma insomma non facciamo dietrologia a nostre volte, perché poi proprio non ne sarei neanche capace, però sicuramente sono dichiarazioni che insomma lasciano un po' così perplessi, perché che il ministro della più importante economia tedesca, il ministro delle finanze, in un certo senso smentisca, tolga autorevolezza alle dichiarazioni del governatore della BCE, fa un po' impressione e turba probabilmente un po' i mercati. Dalle pagine della Repubblica torniamo sulla questione che abbiamo visto ieri, la giungla delle partecipate. Ricorderete che è venuto fuori che una su quattro di queste 1000+ partecipate, che sono aziende che si chiamano così perché sono in piccola parte private e in grandissima parte pubbliche, un quarto è in perdita totale. E allora Luca Pagni ci spiega: incentivi, vendite e fusioni, così verrà disboscata la giungla delle partecipate. Queste misure sono contenute in questo famoso decreto Sblocca Italia, i cui dettagli dovremmo finalmente conoscere dopo il Consiglio dei Ministri di domani. Ci sono, siccome immaginate, sfogliando l'elenco di queste 1000+ partecipate, ci sono casi di tutti i generi. Il caso che ci racconta oggi Repubblica con Carlo Brambilla è quello del casinò di Campione, però il direttore si è difeso dicendo che la colpa è delle tasse. Veniamo alla questione di Gaza. Ieri abbiamo detto, è stata le 19 dell'altro ieri, era scattata la tregua, e Repubblica con Alberto Flores Tarkais da Gerusalemme ci aggiorna e dice che la tregua regge. Speriamo che sia così, perché più che di una tregua era stata annunciata proprio come la fine della guerra. Però i falchi del governo si sono scagliati contro Netanyahu, il primo ministro israeliano, e addirittura vorrebbero, non sono d'accordo, c'è addirittura una frangia che viene definita falchi, che non è d'accordo con questa fine delle ostilità. Ci lasciamo un attimo per il traffico, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle pagine interne di Repubblica e vi segnalo la maca di Michele Serra che tocca un argomento di cui praticamente dobbiamo occuparci tutti i giorni, cioè l'aggressività che c'è in rete sui social network. Avete visto anche tutte le polemiche seguite alla Ice Bucket Challenge, di cui molte foto, quella e la sfida del secchiello di acqua gelata in testa per raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA, sulla sclerosi, su quel tipo particolare di sclerosi che si chiama SLA, con tutte le persone che le più famose che mettevano le loro foto in rete e poi venivano criticate. E allora scrive Michele Serra: se avete intenzione di farvi l'autogavettone benefico, secondo la moda estiva, fate bene attenzione a farvi spiegare prima per filo e per segno il protocollo, chiedendone conto a eventuali probi viri, perché altrimenti vi capiterà di essere severamente sgridati come il ministro Madia, colpevole di un gavettone muto, o Angelo Branduardi, cazziato perché si è permesso di citare la buon'anima di Giorgio Faletti, suo amico da una vita. Nel magico mondo del web agiscono frange agguerritissime di correttori delle vite altrui e delle parole altrui, che neanche mezzo secondo dopo che uno ha detto o fatto una cosa gli fanno una lavata di capo: dovevi dire così e non cosà, dovevi fare questo e non quello. È una specie di coro di suocere in servizio permanente, e la cosa più spiacevole è che il web, non so se per sua natura o perché in balia di scriteriati, riprende più e più volte queste lavate di capo, le rilancia e le amplifica, così che bastano poche decine di rompiballe per creare un effetto scandalo laddove, ripeto, si tratterebbe solo di poche decine di rompiballe, un numero più che fisiologico, persino sotto la media. Nell'attesa che il direttorio dei rompiballe promulghi per iscritto le paroline giuste e le mosse opportune per partecipare a questo gioco e a quelli prossimi venturi, ci si gode, almeno nel mio caso, il sommo piacere dell'assenza. Quindi così sappiamo che Michele Serra non ha partecipato alla Ice Bucket Challenge. Veniamo alle pagine interne della Stampa. Qui c'è una pagina, la pagina 11, molto interessante, si chiama I nuovi equilibri, dove si cerca un po' di... come abbiamo visto, alcuni giornali hanno cercato di fare anche nei giorni scorsi, di mettere insieme tutti questi focolai di guerra, soprattutto quelli che riguardano il Medio Oriente. E allora il pezzo si intitola Il risico delle alleanze fra nemici. Il conflitto siriano e l'avanzata di al-Baghdadi in Iraq hanno ridisegnato la geografia del potere, creato legami e interessi comuni fra paesi rivali. Quali sono oggi i principali attori sulla scena? Maurizio Molinari, corrispondente da Gerusalemme della Stampa, ne individua sostanzialmente 5, o meglio 6: l'Iran, influente ovunque grazie al ruolo delle tribù sciite, Egitto e Arabia Saudita, tra i quali ci sarebbe un patto di ferro per contenere i ribelli sunniti, la Turchia, di cui forse ricorderete abbiamo parlato ieri con un articolo di Sergio Romano sul Corriere della Sera, Turchia dai curdi a Hamas, il sultano Erdogan che continua a giocare su più tavoli, poi Israele naturalmente, l'asse con Al-Sisi, l'egiziano Al-Sisi, per indebolire Teheran e i jihadisti, e poi il Qatar, questo ruolo del Qatar, questo piccolo paese Doha, lo sponsor delle rivolte arabe che dialoga con gli Stati Uniti. Dalla Stampa anche un approfondimento sull'Argentina, un altro paese di cui ci siamo occupati molto quando si parlava di un imminente default, un nuovo default che poi per fortuna non c'è stato, e adesso ieri la presidente Kirchner ha lanciato l'idea di spostare la capitale e di abbandonare Buenos Aires, e Filippo Fiorini ci spiega come mai. Dalle pagine della Stampa, vi segnalo anche una notizia che ha solo la Stampa e che sta seguendo i lavori per la formazione di questa Commissione europea che ancora non si è formata. Sapete che per esempio la questione ci riguarda molto perché Premier Renzi vorrebbe che il nostro ministro degli esteri diventasse il capo della diplomazia europea, Federica Mogherini, ma sappiamo che questa nomina incontra parecchie resistenze. Beh, comunque su tutta la commissione sarebbero soltanto 4 le donne, sono troppo poche perché in realtà si era parlato naturalmente di quote rosa molto più alte. Allora scrive la Stampa: la nuova commissione rischia già una falsa partenza. Il Partito Socialista Europeo, che siede in Parlamento, è quello con il numero maggiore di seggi che dovrà dare la fiducia quando verrà presentata la squadra da Juncker, dice: così nessuna fiducia. Dalle pagine della Stampa, ma è una notizia che trovate in realtà anche su tutti gli altri giornali, questa storia assurda a vederla così, ma pare che appunto non è soltanto la Stampa che ne parla, ma tutti, di questo medico siciliano che in 9 anni ha lavorato 15 giorni, ha seguito tutte le regole, non ha violato nessuna legge, però approfittando di congedi per malattia, parentali, borse di studio e aspettative, appunto in 9 anni ha fatto 15 giorni di lavoro. E questo medico in Sicilia che sta lavorando è addirittura brevettato, e da qui tutte queste assenze con borse di studio, un metodo che si chiama psicogenerativo, che promette grandissimi miglioramenti per il benessere psicofisico di tutti, scrive nel suo sito, e la stampa cita con una certa ironia, appunto citando dal suo sito, che il metodo psicogenerativo per il quale questo signore appunto ha preso tutte queste aspettative dall'ospedale, che alcune aspettative tra l'altro ha anche pagate, questo metodo applicato alla cura e alla crescita personale consente l'espressione, l'acquisizione e l'applicazione concreta di nuove potenzialità per gestire le sfide quotidiane attraverso l'accesso a uno stato psicofisico di livello superiore, quello della creatività. Ed è appunto il caso di un medico siciliano, su cui adesso il direttore sanitario di questa ASL siciliana ha detto che farà degli accertamenti. Vi dicevamo nei giorni scorsi che praticamente l'unico giornale che sta continuando a seguire l'emergenza Ebola, che non perché non, i giornali non se ne occupino più, il virus ha smesso di propagarsi, anzi il Messaggero continua ad aggiornarci. Allarme Ebola, pagina 13 del Messaggero, stretta su voli e aeroporti. Air France, che è una delle compagnie con i maggiori collegamenti verso l'Africa, sospende da oggi le tratte con la Sierra Leone. Misure straordinarie di prevenzione anche negli scambi tunisini. Le Nazioni Unite ieri hanno ribadito, quindi con l'OMS, cioè la parte delle Nazioni, l'organizzazione delle Nazioni Unite che si occupa di sanità, i numeri sono seri, non bisogna abbassare la guardia. E Medici Senza Frontiere, come aveva già fatto nei giorni scorsi, ha ribadito che sono necessarie azioni immediate per evitare altre morti. Ecco, l'impressione è che appunto, siccome è un'epidemia che sta coinvolgendo paesi come la Guinea, Sierra Leone, Liberia e Nigeria, che consideriamo così lontani da noi, e tra l'altro le vittime sarebbero già 1427 dall'inizio, i decessi sono 1427, i casi sono quasi 3000 dall'inizio della crisi, cioè circa dall'esplodere dell'epidemia, cioè circa un mese e mezzo fa. Però siccome sta succedendo lontano da noi, c'è l'impressione che qui in Occidente appunto la cosa venga un po' trascurata. Sempre dal Messaggero vi segnalo, dall'inserto macro, l'inserto dedicato alla cultura, un'intervista con Reinhold Messner, forse il più famoso alpinista italiano altoatesino, che compie 70 anni e li celebrerà con gli amici, scrive il Messaggero, no, a un torno a un falò sulle Dolomiti, anche perché sta lavorando a un museo che ha in parte autofinanziato, che aprirà Plan de Corones, e ancora parla dei suoi progetti, vuole girare un film sulla scalata del giardino con uno dei figli, che è Simon. Il titolo intervista è Io, freelance della montagna. Ma dal Messaggero vi segnalo anche una pagina intera dedicata a Montaigne, Michel de Montaigne, che pensate è morto nel 1592, sono usciti moltissimi libri su Montaigne in quest'anno, ma anche l'anno scorso, uno di un giovane filosofo inglese si chiamava Il gatto di Montaigne, perché Montaigne è quel filosofo che ha detto: quando gioco con la mia gatta non so mai se sono io a giocare con lei o è lei a giocare con me, da qui il titolo del libro, che però in realtà era un'analisi dei suoi scritti. Lui ha scritto questi monumentali saggi, è importante avere qualcuno che selezioni, perché alcune parti sembrano sicuramente datate, ma alcune, ripeto, per un uomo che è vissuto nella seconda metà del 1500, sono di un'attualità incredibile, tant'è che soprattutto quando queste selezioni dei suoi scritti vengono fatte con intelligenza, hanno poi un successo incredibile, così come il libro Un'estate con Montaigne, che in Italia è tradotto da Delphi, che è un librettino di piccole lezioncine radiofoniche su Montaigne, che partito in sordina, poi venduto in Francia centinaia di migliaia di copie e spero anche in Italia. Dalle pagine dall'Avvenire vi segnalo un'interessantissima pagina su uno di quegli argomenti di cui non parla mai nessuno, tranne forse appunto l'Avvenire, che ha sempre il merito di avere una grande attenzione alle vicende geopolitiche, anche quelle più complicate, quelle che fanno meno notizia, e qui si parla di land grabbing, cioè la corsa alla terra dei poveri, che l'Avvenire definisce accaparramento selvaggio. Ogni 4 giorni viene comprata un'area vasta come Roma, e c'è una mappa, e queste aree, soprattutto naturalmente nei paesi più poveri, quindi la top 10 dei venditori sono la Nuova Guinea, l'Indonesia, il sud del Sudan, il Congo, il Mozambico, il Brasile, l'Ucraina, la Liberia, il Sudan e la Sierra Leone. Dal 2000 sono passati di mano 60 milioni di ettari, acquistano Stati Uniti e Gran Bretagna, ma anche i paesi arabi e la Cina, per produrre all'estero o per speculazione, con effetti pesanti. Quindi questa sorta di nuova colonizzazione che ha soprattutto, appunto, aspetti economici legati alla possibilità di produrre in paesi dove, per esempio, la manodopera costa di meno o che sono ricchissimi in materie prime che magari in Occidente non abbiamo. Ricordiamo che, per esempio, la Cina ha di fatto colonizzato l'Africa, perché la Cina è ricchissima di manodopera ma è poverissima di materie prime. Dalle pagine interne di Libero vi segnalo un'inchiesta con un articolo di Mario Giordano che spiega come al sud sia irregolare un lavoratore su due. È una conferma di un dato che era già emerso nel 2012, eppure, scrive Mario Giordano, la Guardia di Finanza è più impegnata in Veneto che in Sicilia. Dal Giornale un approfondimento invece sugli italiani che comprano a Londra. Sapete che Londra è, tra l'altro, secondo alcuni è di nuovo a rischio di una bolla immobiliare, però sicuramente è uno dei mercati immobiliari più vivaci. Ecco, tra i grandi compratori ci sono anche gli italiani. Italiani fan della City, battiamo russi e arabi nell'acquisto di case. Da Kensington a Mayfair e Chelsea gli immobili danno buone rendite. Le procedure sono semplici, per il contratto non serve neppure il notaio. Un'ultima segnalazione dal Giornale, una bella intervista a Stefano Baldini, forse uno dei maratoneti, il maratoneta più famoso degli ultimi anni in Italia. Ha vinto, ricorderete, la medaglia d'oro a Atene ai Giochi Olimpici di Atene 10 anni fa, e scrive il Giornale: 10 anni fa il suo oro stregò gli italiani, fece scoprire a tutti il fascino della fatica. Sicuramente sono sempre tante le maratone in giro per l'Italia e sempre di più i maratoneti, a proposito appunto di dare spazio ad altri sport oltre al calcio. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Peter Bescapè in regia mi fa segno che sono già un pochino in ritardo. Una buona giornata a tutti da Giulia Crivelli.